America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Voglio parlarvi oggi di relazioni Europa-Stati Uniti. Abbiamo avuto un po' di notizie in settimana. Vi propongo intanto una canzone che secondo me interpreta lo stato delle relazioni. Where have all the flowers gone? Young girls pick them every one. When will they ever learn? When will they ever learn? John Baez, Where Have All the Flowers Gone? Dove sono andati a finire i fiori? Questa è stata una canzone straordinaria che ha legato moltissimo Europa e Stati Uniti, soprattutto a cavallo della guerra del Vietnam. Era una canzone pacifista. Dove sono finiti i fiori? Diceva appunto John Baez. Dove sono finiti i fiori? Sono stati sostituiti dai cannoni. Ecco, questa canzone ve la propongo perché ha legato i due paesi in qualche modo, in un modo in cui secondo me oggi non sono più legati, e dovendo parafrasare potremmo dire: beh, dove sono andati i fiori del rapporto Europa-Stati Uniti? Secondo me c'è un momento di freddezza. Il presidente Barack Obama ha detto di essere il primo presidente del Pacifico e dunque non è il presidente atlantico. Sembra non avere quel rapporto che avevano avuto i suoi predecessori con il vecchio continente. È impaziente nei confronti dell'Europa. Ha cancellato un vertice bilaterale con l'Europa. Non ha lo stesso rapporto che avevano i suoi predecessori, per esempio, anche con l'Europa dell'Est. Ad esempio, questa settimana Hillary Clinton è andata a fare un giro in Ucraina, in Polonia, in Azerbaigian, Armenia, Georgia, proprio per rassicurare i vicini della Russia. Il rapporto privilegiato fra Washington e Mosca non andrà a interferire nei rapporti altrettanto privilegiati con questi paesi. Eppure anche lì ci sono dei dubbi. Nell'era pre-Obama il rapporto era America, paesi dell'Est, e la Russia era dall'altra parte. Nell'era di Obama il rapporto è con Mosca e i paesi dell'Est sono tornati ad essere un po' un'intercapedine. Ecco, di tutto questo vorrei parlare con Paolo Valentino, corrispondente del Corriere della Sera da Washington, vecchio amico, compagno di lavoro, che ha intervistato ieri il presidente Barack Obama. Paolo, buongiorno. Dunque, ci hai dato il buco a tutti noi corrispondenti, una mascalzonata, come si direbbe. Sei riuscito a intervistare il presidente Barack Obama? Sono umilmente riuscito a intervistare il presidente Barack Obama. Lo ha detto lui, a dire la verità, quando sono entrato nello studio Vale. Questo è un regalo d'addio di Robert Gibbs. Come tu sai, Mario, io rientro a Roma dopo 3 anni negli Stati Uniti e, essendo stato con loro dall'inizio della campagna elettorale, hanno probabilmente voluto farmi questa carineria. Beh, Paolo, sei un gentiluomo, come sempre. Io aggiungo che questa intervista l'hai avuta anche grazie alla tua bravura e non soltanto perché volevano farti un regalo. Ma vediamo un po' intanto com'è Barack Obama oggi, com'era ieri alla Casa Bianca. Raccontaci. Devo dire, a dispetto dei milioni di problemi che gli cascano addosso, sembrava assolutamente rilassato, sorridente. Dacci un'idea anche di com'è avvenuta, scusa, questa intervista, perché io mi è capitato anche a me di andare qualche volta nell'ufficio Vale. Ci sono i due divanetti. Beh, ci sono le due poltrone. Intanto la cosa che più colpisce, appunto, e quanto piccola sia la West Wing della Casa Bianca, quanto di dimensioni ridotte, tutto si risolve in pochi metri quadrati. Ho fatto un pochino di anticamera, poi siamo accompagnato da Mike Hammer, che è il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Siamo andati verso lo studio Vale, passando dall'ufficio della segretaria, dove c'era il presidente sull'uscio che ci ha accolti. C'era un tavolino all'angolo dove hanno appoggiato due splendidi bicchieri pieni d'acqua con il sigillo della Casa Bianca. Avrei tanto voluto chiedere di portarmene una a casa, ma non ho avuto il coraggio. E lì abbiamo cominciato la nostra intervista. Ho dato un po' uno sguardo in giro, ho visto che il suo desk, la sua scrivania, la famosa scrivania di Roosevelt, che poi era stata usata anche da John Kennedy, era la famosa scrivania che c'ha questo segreto davanti, dove si nascondeva il piccolo John quando il padre era in ufficio, è completamente quasi disadorna. C'è solo qualche documento, c'è solo un telefono, mentre in un tavolo sull'angolo, su un muro, ci sono tutte le foto di famiglia. Ecco, beh, dunque Paolo, grande emozione ovviamente, perché un'intervista, tra l'altro da solo, ricordiamolo, perché non era un'intervista di gruppo, non era in occasione, sì, era un'intervista 1-1, non era in occasione di un summit internazionale. Ecco, al di là di quello, veniamo alla sostanza poi di questo tuo incontro, perché ci sono una serie di problemi ovviamente. Ecco, tu hai detto che il presidente ti è sembrato rilassato, si dice che i sondaggi vadano male, l'economia non funziona. Ecco, qual era il suo umore? Ripeto, mi è sembrato non solo rilassato, ma anche molto sicuro di sé, molto assolutamente in palla sulle cose, sugli argomenti di cui si è potuto discutere in 15 minuti. Ecco Paolo, si è parlato di tensioni qualche volta fra Berlusconi e Barack Obama. È vero secondo te? Hai chiesto qual è il rapporto con Berlusconi, col presidente Napolitano? Hai percepito? Ho fatto una domanda specifica in te in merito. Anzitutto lui il nome di Berlusconi lo ha tirato immediatamente fuori. Quando gli ho fatto la domanda sull'Afghanistan, in cui ha detto che Berlusconi è stato un alleato conseguente, il primo ministro Berlusconi è stato un alleato conseguente e forte, e lui ha definito straordinari i sacrifici del popolo italiano per l'impegno in Afghanistan. E poi a una domanda specifica sul presidente Napolitano, lui ha immediatamente detto che trova il presidente Napolitano una very gracious person, una persona piena di grazia, ha detto che ha sviluppato un rapporto di forte amicizia col presidente Berlusconi, personale, che nei vertici loro ridono, scherzano, ma parlano anche di cose serie. E su Napolitano ha detto che la sua visione di un'Europa forte coincide assolutamente con la mia, e l'importanza che Napolitano annette all'alleanza transatlantica è esattamente quella che annetto io. Qualcuno dice, e io devo dirti lo penso, che Barack Obama tutto sommato sia un po' annoiato da questa Europa che non riesce a organizzarsi, a proporre qualche cosa di concreto. Ecco, hai parlato di Europa con Barack Obama, cosa ti ha detto? Ho parlato d'Europa in rapporto a un tema molto specifico, la Turchia, e anche se lui è rimasto sempre molto calmo e sereno, è rimasto molto attento nell'esprimere la sua posizione, ma di fatto lui ha criticato fortemente l'Europa perché per l'atteggiamento di chiusura nei confronti della Turchia, sostanzialmente attribuendo al rifiuto dell'Europa di integrare nelle sue istituzioni a pieno titolo la Turchia, la ragione dell'attuale deriva turca. Abbiamo visto negli ultimi mesi che la Turchia, nelle ultime settimane, che la Turchia ha votato contro le sanzioni all'Iran e in più ha raffreddato i rapporti tradizionalmente buoni con Israele. Secondo Barack Obama, uno dei fattori che hanno contribuito a questa deriva è stato sicuramente il rifiuto dell'Unione Europea di impegnare la Turchia in un dialogo più proficuo e in prospettiva nell'integrazione delle istituzioni comunitarie. Ha detto una frase molto interessante, ha detto: è chiaro che se il popolo turco non percepisce di appartenere alla famiglia europea, sarà inevitabile che guardi altrove per alleanze e affiliazioni. Mi sembra una frase molto significativa e un bel campanello d'allarme per gli europei. Ecco, ma Paolo, Barack Obama appartiene alla famiglia europea? Io ho fatto una domanda in tal senso, citando fra l'altro un passo del suo libro dove lui racconta il suo viaggio in Europa sulla strada dell'Africa, il suo peregrinare attraverso le capitali europee dalle quali lui rimane abbagliato, Parigi, Madrid, Roma, cita un famoso tramonto sul Palatino, ma poi aggiunge che quella cosa non gli appartiene. Io gli ho chiesto di spiegare questa frase, ebbene lui ha detto: no, guardi, quella frase era in un contesto diverso, perché io andavo in Africa per colmare un vuoto, per cercare mio padre. È un vuoto che l'Europa non poteva colmare, ma dal punto di vista della mia identità io sono un americano, e l'ingrediente più forte dell'identità americana è probabilmente l'ingrediente europeo. Ha detto anche un'altra cosa, ha detto: io mi sento più a mio agio quando viaggio in Europa che non quando viaggio in Giappone o in Cina, pur essendo cresciuto alle Hawaii. Bene. Quindi ha riaffermato un legame culturale profondo e spirituale con l'Europa. Bene Paolo, allora speriamo che questa sia la versione reale di Obama, quindi un presidente atlantico europeista e non soltanto del Pacifico. Senti Paolo, complimenti, grazie della chiacchierata e alla prossima. Grazie Mario. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno, vorrei dedicarla a Madonna, che spende 675.000 euro all'anno per curarsi il corpo, o meglio, per abbellirsi. E dunque Madonna, che fa di tutto per mantenersi bella e ci riesce, perché a 52 anni alla fine ne dimostra 15 di meno, dedichiamo una canzone appropriatissima, la sua celeberrima Material Girl. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.